Ben ritrovati a una nuova puntata della Fuga del Gatto in un mostruoso ritardo, ma giuriamo non è colpa nostra, ma bensì del traffico domenicale che sembra poco, ma invece era tantissimo. Incidenti, cavallette, zombie, vampiri, tutt'altro, tutte queste cose. Quindi con la cenere sul capo iniziamo, e però ci facciamo perdonare perché oggi vi parliamo di un'opera in particolare, ci focalizziamo su una singola opera che in Italia non è molto, cioè, direi veramente eseguita pochissimissimissimo e in generale non tanto considerata, non tanto discussa. Parliamo dell'Armide di Jean-Baptiste Lully. Siamo nel fine 600, inizio 700, Francia, e insomma ora vi contestualizzeremo tutto. Se ci riusciamo, ci piacerebbe provare a più in là, insomma, darci un po' una continuità su questa cosa e ogni tanto proporvi una singola opera che chiameremo la soap opera o qualcosa del genere. La soap singola opera. Esatto. E farvela ascoltare, non integralmente ovviamente, ma raccontarvi via via cosa succede, la trama, e farvi intermezzata con un po' di ascolti degli estratti. Bene, sì, sopravvissuti, più o meno, sopravvissute ai postumi della sera precedente, del sabato sera, e a vari complotti, perché io sostengo ancora questa teoria che cercano sempre di non farci arrivare qui in tempo. Eh certo. Ovviamente non è colpa nostra, ma dei complotti. Presentiamo appunto brevemente il nostro Giovanni Battista Lully, perché è inutile che qui facciamo tanto, in effetti, raffinati come al solito, perché... Come al solito, e non vorrei assolutamente, lontano da me ogni nazionalismo, sì, come si vuole dire, lontano da me, ma anche qui, ancora una volta, bisogna dire che il vecchio Lully, in realtà al secolo, Giovanni Battista Lully, nato probabilmente originario, si dice, non si sa bene, in Mugello, pensate voi, anche il Mugello ci ha regalato qualche gioia ogni tanto, e comunque insomma cresciuto nella Firenze degli anni 20 del 600, arrivato in Francia attraverso insomma mirabolanti avventure nel febbraio del 1646, appunto in realtà portato come accompagnatore della corte di una duchessa di Guisa, e quindi appunto al servizio di questa, poi al successivo servizio di Anna Maria Luisa d'Orléans, che però è giovanissimo, giovanissimo lui. Giovanissimo fu portato in Francia, un bambino, esatto, tramite questa famiglia. Ecco, aveva già delle innate qualità come ballerino, come musicista, insomma aveva avuto un'educazione musicale, aveva fondamentalmente un orecchio innato, così si dice, insomma almeno così dicono i testi. Avrebbe appunto avuto la possibilità, aveva ricevuto lezioni di musica, violino e chitarra da un frate francescano in via Borgo Ogni Santi. Non vorrei dire, però cosa succedeva? Infatti in Lungarno Vespucci c'è una targa, tra l'altro, dedicata a Lully, non so se appunto per l'abitazione, probabilmente aveva abitato lì. Comunque, diciamo, è arrivato al Palazzo delle Tuileries, niente po' di meno che il Palazzo delle Tuileries, che era stata poi la prima, insomma, una delle residenze poi della corte francese, prima del Louvre e poi di Versailles. Comunque, dove risiedeva la nobildonna per cui lavorava, e appunto in questo ambiente si tenevano comunque feste da ballo, balletti, insomma c'era l'opportunità, diciamo, per un giovane di potersi esprimere. Così, parrucche, nei, tutte quelle cose là. Trucchi, profumi, quel che Cipria. Ci vuole. Ecco. E lui si fece notare, appunto, per le sue qualità. E così via via, senza starvela a fare troppo lunga, in una scalata, diciamo, più o meno diretta, fino alla corte di Francia. Alla corte, appunto, in particolare, si sta parlando della corte del Re Sole, con tutto quello che comporta, ovviamente, questo personaggio, questo periodo storico, per chi ne sa più o meno, però penso, insomma, più o meno, diciamo, nei parametri. Almeno è uno dei più famosi, ci siamo dai. Capiti, il Re Sole, esatto. il terzultimo in linea, perché poi il nipote è andato, giustamente, a mio parere, sì, insomma, sì, nei fatti che ben conosciamo della Rivoluzione Francese. Ecco, nonno di lui, il Re Sole, gli affida, ecco, incarichi sempre più importanti alla corte, gli affida coreografie per balletti, gli affida via via proprio ruoli di spicco nella coordinazione delle feste che, come appunto sappiamo, che per chi non lo sa, come si può intuire, erano fondanti di una cultura, ecco, di un modo di regnare appunto in quel momento, che dette poi non pochi problemi, non a caso, perché queste cose non costavano poco, no, però ecco, era una creazione di un immaginario, no, di una mise en scène di un potere che si fondava molto su, appunto, sull'apparire il centro di tutto, appunto il Re Sole era il centro di tutto e tutto quello che girava intorno doveva essere anche rappresentato in maniera grandiosa, doveva avere una sua storia, una sua, perché no, appunto, inventata anche. Sì, volendo, sicuramente infiorettata. Ecco, in quel momento costruito. Quindi, ecco, personaggi come lui, ma non solo lui, insomma, poi si parla di altri compositori, di scenografi, eccetera, però, diciamo, Lully sarà comunque fondante per tutto il percorso di quella che poi sarà l'opera francese, della tradizione dell'opera francese. E il re appunto lo tenne infatti in grande considerazione, lo favoriva veramente oltre misura, e infatti fu nominato finalmente nel 1661 Surintendant de la musique de la Chambre du Roi, cioè il sovrintendente della musica della Camera del Re, cioè il massimo a cui si poteva aspirare in quel momento per un artista. Ottenne poi via via lavori conseguenti alla sua carica. Lully collaborò a lungo con il coreografo e maestro di danza Pierre Beauchamp per la creazione di numerose comédie ballet, che erano appunto commedie balletto, cioè la prima forma, la protoforma dell'opera francese, che erano appunto un po' a metà tra la tradizione del melodramma italiano, del recitar cantando, e andavano poi verso un'opera più composta, più grande, più grandiosa. Una delle più celebri, per citarvela, sarà Le Bourgeois Gentilhomme sul testo di Molière, quindi insomma si parla di roba, ecco, a livelli alti. Diversi tentativi erano stati messi in atto per adattare i melodrammi musicali italiani alla lingua francese, e più in generale ogni spettacolo che però avesse targa francese, che non fosse solo mutuato dall'italiano, era ben visto, era spinto, era incentivato, quindi anche nuovi generi come questa comédie ballet inventata da Molière inizialmente erano appunto creati a tale scopo, come si diceva, cioè a creare una storiografia, un immaginario, una tradizione di un'opera che fosse solo francese, che non fosse più derivativa di quella italiana. Quindi la creazione di un melodramma nazionale che aveva avuto i suoi primi passi già appunto con altri e che con Lully doveva appunto culminare nella sua, sì, forma. Sì, poi vedremo come mai, insomma, si sentiva questo bisogno e anche le differenze che c'erano un po' con l'opera italiana e i successivi sviluppi, insomma. Esatto, quindi diciamo tutte le opere di Lully poi vanno in questa direzione qui, cioè di essere fondamentali e importanti al di là, insomma, del proprio valore intrinseco di artistico, che ovviamente c'è, è stato riconosciuto, però appunto l'apparato scenografico cominciava a essere più imponente, si parla appunto di macchine teatrali, balli inseriti, cori, quindi cominciava proprio a formarsi, cioè era più soltanto appunto una forma primitiva, ma cominciava a diventare un apparato grosso, e quindi da qui il nome di opera, anche se chiaramente non si sta parlando dell'opera come si intende quasi sempre, l'opera all'italiana, la Verdi, cioè è una cosa diversa, anzitutto è prima, poi è proprio l'impianto diverso, però diciamo si dice opera proprio per indicare che stava andando in una direzione di grandiosità. Eh sì, Lully in realtà la chiamava Tragédie Lyrique, poi vedremo un po' come mai questo nome. Tra l'altro vi dico subito, prima di dimenticarmelo, quando pubblicheremo il podcast di questa puntata metteremo il link che va verso archive.org, che tra l'altro è un progetto fighissimo, che se non conoscete vi invito a guardarlo, e che è il progetto che ospita anche tutti i nostri podcast. E lì, oltre ai nostri podcast, c'è qualcosa di parecchio più importante, tra cui anche tutto la pubblicazione di tutta la partitura e tutto il libretto dell'Armide. Come di questa ce n'è di insomma, dire, di tantonnellate di altre, e quindi insomma metteremo il link per chi vuole curiosare e guardare la partitura e le parole, l'introduzione del tempo e comunque insomma date un'occhiata in giro perché è un bellissimo sito, un bellissimo progetto. Allora, praticamente sì, come diceva prima la Virgi, in Francia si decise di provare ad avere una propria opera, cioè dare inizio a una propria opera, una propria tragédie lyrique, appunto come la chiamavano. Ma questo perché inizialmente in Francia l'opera non era particolarmente apprezzata. Vi ricordiamo che comunque l'opera in Italia nasce, in Italia e nel mondo nasce nel 1600, proprio all'inizio, e tra l'altro a Firenze, magari una volta ne parleremo dettagliatamente di Peri, Esatto, cioè, prima Monteverdi, poi dopo, melodramma e insomma. poi dopo l'opera, tu eri 70 anni, Esatto. Ah, diciamo che era Firenze. quasi un secolo che esisteva l'opera. Cioè, Ora, non nella Armide, forma, come sì, siamo cioè. all'ultima opera di Lully, quindi insomma ne ha fatte altre prima. Però insomma c'erano stati diversi decenni, l'opera esisteva da un po' in Europa. In Francia non piaceva particolarmente. Ad esempio, per molto tempo si pensò che il francese non fosse una lingua adatta ad essere musicata. Che buffo, perché in realtà il francese è universalmente riconosciuto come una lingua musicale, anche se in effetti ha una sua complessità che anzi la rende sì musicale, ma difficilmente Esatto, musicabile. difficile da musicare proprio per Infatti. la struttura fonetica, Sì, gli eccetera. accenti e tutto. E in più il carattere fortemente razionalista preponderante all'epoca, ancora non eravamo arrivati Quindi all'illuminismo, insomma. pensiamo, non vedeva di buon occhio tutto quello stupore, il fantastico, quello che poi tra l'altro dicevamo anche le altre volte che abbiamo parlato un po' di barocco. Che era comunque la base fondamentale dell'opera italiana del I 600. temi proprio, base, insomma, il Sì. E sentimentalismo piuttosto che la fantasia estrema, i salti lo di stupore Pindare, proprio. sì, ecco. Esatto. E loro non apprezzavano particolarmente essere stupiti, ecco, diciamo. E quello che invece apprezzavano i francesi nell'opera italiana erano i macchinari che prima citava la Virgi, i macchinari teatrali ingegnosi che vennero costruiti, inventati in Italia. In particolare a Firenze con Brunelleschi, ma su questo dovremmo fare proprio una puntata a sé Sarebbe bello farlo, tra della l'altro. prima volta in cui, insomma, delle prime volte, perché erano gli architetti poi che creavano i macchinari scenografici, ingegneri ovviamente. Eh Quindi. sì, e questa cosa ai francesi piaceva non poco, e quindi quella sì era una cosa che apprezzavano. E insieme ai macchinari apprezzavano molto le parti musicali che si trovavano all'interno delle opere dedicate al ballo, perché ai Ballo. francesi piaceva ballare. Infatti la commedia ballet che si diceva Eh prima sì, come non c'era versi. Il ballo era una strumento. cosa fondamentale che non si poteva prescindere da una messa in scena o comunque una musica. E quindi l'opera no, non si sottraeva. Vedremo dopo come Lully inserisce anche dentro Armide delle parti fondamentali di Danzate. balletto, perché ci voleva. Una di quelle cose che altrimenti non ti compravano l'opera. Ecco. Nelle opere francesi settecentesche, insomma 600-settecentesche, si dà quindi questo un grande risalto appunto alle scene che comportavano l'uso di questi macchinari e al ballo. Lo sentirete, oltre a esserci delle parti dedicate espressamente al ballo, tutte le musiche sono in qualche modo ballerecce, diremmo adesso. Coreografabili. Sì. Esatto. Non so se esiste questa parola, però non lo so, però io sicuro la uso. è meglio di ballerecce. Coreografabili. Ecco. E vabbè, niente, il pubblico voleva così e quindi così era. E la tragedia in musica, la tragédie lyrique come viene chiamata, è un'opera che comunque sia, diversamente da quello che succedeva per l'opera italiana, ha il carattere di una tragedia e solo secondariamente entra in gioco la musica. Il testo ha molto, molto, molto, molto, molta importanza, tant'è che veniva ripreso insomma, classici. Dai classici, come diceva giustamente prima Virginia. Nel testo, tra l'altro, non compaiono mai elementi di vita quotidiana né elementi comici come invece avveniva in quelle italiane del Seicento. Tutto è molto imponente, maestoso e in qualche modo alto. Diciamo. Goldoni ci aveva da venire ancora. È parecchio, sì. Arriverà due re dopo, però appunto. Eh sì. E, diciamo, è l'opera del re, insomma, essendo l'opera del re, celebrare, ma neanche della corte, tra l'altro, proprio del re. Sì, sì. E quindi, essendo l'opera del re, non c'era niente a ridere, insomma, cioè bisognava che fosse imponente e non c'è, tra l'altro, come dicevamo prima, nessuna aspirazione allo stupore o all'originalità neanche, cosa che invece si ricerca molto in quella italiana. E tutto tende un po' alla convenzionalità. Alla magnificenza intesa come celebrazione di uno status politico. Un re che si fa chiamare il re sole, la dice abbastanza sì. lunga, insomma. Sì, era una celebrazione del potere e quindi in questo modo si doveva divertire e compiacere il re ma non sorprenderlo, perché era la celebrazione dello status quo, quindi non ci doveva essere un suo movimento strano, anche in positivo. Niente ambiguazzerie. No, no, no, no, tutto doveva essere come era. Quindi diciamo che Graut, che equilibro, breve storia dell'opera, io apprezzo, sto leggiucchiando piano piano grazie al prestito di Prog 427, appunto, che ringrazio. E, nel libro di Graut lui lo chiama il nobile splendore formale, che secondo me inquadra perfettamente un po' tutta l'opera di quel tempo francese. In particolare, allora, questa opera che vi andiamo a far sentire oggi è l'Armide, è una tragedia lirica, appunto, composta su un libretto di Philippe Quinault, che a sua volta riprende un episodio della Gerusalemme liberata di Tasso. Effettivamente tutte le opere di Lully avevano comunque temi classici, di tragedie di stampo classico, ecco. E questa qua non sfugge, ora vedremo un po' la trama, e insomma, più o meno si inquadra sempre in questo tipo di soggetti. Fu rappresentata per la prima volta all'Académie Royale de Musique a Parigi il 15 febbraio, quindi siamo quasi nell'anniversario, del 1686. E abbiamo già detto che è l'ultima opera di Armide. Nonostante il suo successo, non approdò mai alla corte. Era normale che le opere venissero rappresentate a corte, era un po' il loro ovvio corso. Questa non ci arrivò, probabilmente, e qui si scade nel gossip assolutamente proprio domenicale. Domenicale e assolutamente non appurato, no. su basi veramente. Beh, il gossip migliore. Cioè, esatto, da novella 2000. Probabilmente perché in quel periodo Lully era stato al centro di uno scandalo, un grossissimo scandalo, perché sorpreso con un paggio di corte. E ci dicevamo prima di iniziare che non è che questa cosa fosse particolarmente strana o nuova in quegli anni, in quell'ambiente, in quel paese, assolutamente. Né dopo, fondamentalmente. No, tra l'altro neanche dopo, ma però, tanto meno in quel momento. Però il fatto che si venne a scoprire e la cosa arrivò al pubblico dominio, purtroppo fece in modo che il re dovette in qualche maniera litigare brutalmente e davanti a tutti con Lulli. Quindi Lulli Siamo però perse a fine carriera, alla insomma, fine della sua diciamo. carriera, perse. Credo che poi non fu definitiva questa rottura, se non ricordo male, poi si riappacificarono, però per un gran importante periodo di Potrebbe essere fatto uno dei erano. motivi per cui l'opera, a Eh differenza sì, delle altre, che erano state create per la si corte, passate alla suppone, non corte. c'è assolutamente nessuna base per dire tutto ciò, però è insomma, diciamo, abbastanza plausibile. Ora, iniziamo, direi, veloci con quest'opera, Armide. Tra l'altro, vi invito a guardare su YouTube, si trova la versione integrale, la registrazione integrale di una rappresentazione avvenuta, mi sembra, in Francia, ho dei ricordi vaghi, tanto che non la riguardo, che è molto bella, con una coreografia e una scenografia moderna, ci cioè hanno fatto una versione Contemporanea. C'è sì un po' rifatta, da ecco, pensare ma che bella. le rappresentazioni dei balletti, prima, perché lui fece appunto molte musiche anche proprio per costruzione, cioè musiche per balletti e, insomma, e per costruzioni sceniche, appunto, che andavano molto di moda oltre alle opere. Molte di queste opere, balletti, eccetera, venivano riprodotte nella corte di marmo di Versailles. Quindi anche qui ci sarebbe da fare un discorso sulla nascita del teatro di corte, che è poi la base del teatro, di quello che noi chiamiamo il teatro all'italiana, ma vabbè, succedeva anche qui a Boboli, Eh anzi uno sì, dei e primi esempi è stato l'utilizzo della corte esterna di Boboli. Comunque, c'erano dei grossi parallelismi. esatto, infatti, qui è appunto. Infatti, sì, ora qui su internet c'è un'immagine dell'Alceste di Lulli, dell'Alceste messa in scena nella corte di marmo, che è la parte esterna, diciamo, per chi è stato a Versailles, ma anche per no, chi non c'è stato, si vede sempre anche nei film, c'è cioè lo spiazzo, la facciata del palazzo e le due ali aggettanti verso diciamo, chi guarda, e creava poi una sorta, cioè era già no? Una sorta di, creava già Esattamente lo come spazio Boboli teatrale. o Esatto, come come Palazzo Pitti, insomma. esatto, come il dietro, come la parte del giardino di Palazzo Pitti, che è poi l'origine, almeno nelle teorie più accreditate, del teatro a palchi, addirittura. Quindi bisogna immaginare appunto che tutti questi macchinari, tutta questa messa in scena non era soltanto per i teatri al chiuso, ma fondamentalmente le più grandi, le più importanti rappresentazioni erano proprio nella corte, cioè all'esterno, nel cortile di Versailles. Quindi, insomma, bisogna immaginarsi anche la grandiosità, no? Veramente il bisogno di. E si parla di un'epoca dove non c'erano luci, laser, macchinari, niente, c'era tutto illuminato a luce naturale, a candela, per cui, insomma, Né amplificazione, niente. ovviamente. Quindi, insomma, ecco, anche appunto, brava l'amplificazione, cioè già il palazzo stesso con le due parti già forniva un eco, forniva un. Eh Quindi, insomma, sì. bisogna pensare a contestualizzarlo in questo modo qui, ecco. Esatto. Iniziamo. Allora, le opere di Lully iniziano sempre con una marchetta a Luigi Che fai se no, XIV. Eh quando sì. lavori. Eh sì, tutto il favore che si diceva, insomma, in qualche maniera se l'era guadagnato, e quindi l'Armide non fa eccezione. È un momento che avviene nel prologo, in questo caso, un momento in cui si tessono le lodi del re, si magnifica la sua gloria. Sì, è proprio un momento abbastanza inutile Vabbè, perché nel corso della trama serviva. non serve a Però niente. io lo voglio dire, È diciamolo, così, ed è tutta mettiamolo una nella mano. cosa. Ah, sì, il sole, ruota tutto intorno al sole, ovviamente. Si capisce il co come mai. Sole paga, e quindi di fatto Sì. è la storia più vecchia del mondo. Vincerà. In genere, in queste marchette iniziali si faceva accenno proprio a, che ne so, vittorie militari, cose di questo tipo. Insomma, era proprio. Immaginatevi, non lo so, come se adesso si mettessero a ragionare di Renzi e delle sue Oh mio fantastiche, Dio, i suoi che opera fantastici sarebbe? risultati. Una Esatto. tragedia, ma nel senso Una proprio tragedia una tragedia brutale, brutta. sì. E va bene, quindi iniziavano così questo tipo di opere, pure l'Armide inizia così, e iniziamo quindi con il prologo. Ora inizieremo a leggervi un po' la trama di questo, così come viene, io l'ho trovata nell'enciclopedia, non mi ricordo se l'enciclopedia dell'opera, ma forse no, forse l'enciclopedia e basta, comunque sia è una trama un po' buttata lì, ma d'altra parte è introvabile, non si trova in altra maniera, quindi prendetela per com'è. No, perché giustamente in Italia Non l'opera se la si dà solo considera. Verdi per 70 anni di seguito, ma non è che ci possiamo mettere a dare della roba prima, magari anche un po' Esatto. interessante. No, cioè No. Verdi, Puccini e tutti a casa, Infatti, fondamentalmente. poi tutto viene liquidato Se sempre in proprio, due proprio, parole. guarda, non lo so, ogni tanto passa Wagner, Ma ma noi no, proprio. alla fuga del gatto No, sempre controcorrente. contro. Esatto. E quindi, prologo. Allora. La storia la vedrete via via, non ve la Non la anticipiamo, no, spoileriamo. infatti per non fare spoiler, e quindi iniziamo. La gloria e la saggezza, che chiaramente sono la personificazione di queste Cioè, cose, praticamente un po' come noi. Cioè, certo, siamo la gloria e la saggezza, ora che ne pensi? sì, a turno anche, Certo, chiaro, sì. a turno, una A domenica. dialogo, infatti, Chiaro, e come due dame. ecco, Torna tutto. fatti. Che si dividono equamente i favori del cuore di Renaud, ne lodano. Renaud è il coprotagonista dell'opera, questo guerriero. Che poi Rinaldo, Sì, volendo. e infatti sarebbe Rinaldo, Beh, la almeno. Gerusalemme liberata, ma Comunque, vabbè, Renaud. Renault. Ne lodano gli eroismi in guerra e in pace, egli saprà trionfare, proclamano entrambe, anche sulle tentazioni dell'amore. E questo è un po' già ci dà l'anticipo del succo di tutta l'opera. Arnaud verrà tentato, verrà in qualche modo irretito, ma audace resisterà a queste Così tentazioni. come appunto si diceva, no? La Francia resisteva ai temi sentimentali Sì, delle esattamente. opere italiane. Razionalismo Vedi? e tutto quanto. Quindi, il prologo, sentiamoci subito, l'Armide, Jean-Baptiste Lully, l'Ouverture. Era l'ouverture del prologo di Armide Jean-Baptiste Lully, come dicevamo, o Giambattista Lulli, E che il gli Lulli, lulli. Mugellano Doc. Mugellano. Atto primo, sì, tagliamo chiaramente, quindi arriviamo già all'atto primo. Non vi facciamo sentire tutti gli sproloqui sul re, sole, eccetera, No, eccetera. ragazzi, proprio, insomma, si Andateveli può a fare a sentire. meno, ecco. Esatto. Atto primo, una grande piazza sormontata da un arco di trionfo. Qua, Eh già, riferimenti già ante comunque. litteram, vabbè. Armid, ecco, questa cosa dobbiamo dirla perché sennò non si capisce. Armid è una maga. Va presentata. Una maga, proprio le maghe, quelle che fanno le magie Quelle con i poteri serie. magici, e è però anche una signora potente che in un certo modo deve essere vinta come se fosse un capo di Stato in qualche maniera. E Arnaud si confronterà con lei un po' in questo modo. Armide si lamenta con le sue confidenti Sidonie e Fenice. Al momento del suo più grande trionfo, all'aver fatto innamorare di sé tutti i cavalieri crociati, una profonda tristezza l'affligge. Ebbene sì, Armide, era riuscita Aveva finito l'album, quello delle figurine, cioè aveva Esatto, aveva tutti. completato tutto, Ma era cavolo, arrivata oggi è lei. così, ve lo dico. Preparatevi, E però, se non la perché così. soppopera, Eh come no, è si che è fa? così, cioè proprio non ce la posso fare, È ecco. chiaro. E quindi era riuscita a completare l'album e Renaud invece resta ancora insensibile alle lusinghe del suo fascino e della sua bellezza. Per questo Armide lo ammira e lo odia al tempo stesso. Ebbene sì, Armide, iniziamo già a capire il nocciolo della questione, ha un rapporto conflittuale perché da un lato vorrebbe sconfiggere Renaud facendolo innamorare di sé e quindi fregandolo come ha fatto con tutti gli altri cavalieri. Da un lato, però, in qualche maniera L'unico che è gli resiste, che le l'intriga questo resiste, fatto che lui. è la storia più vecchia del mondo, Sì, ragazzi. ma Perché qui infatti, non no, questi diciamo niente di francesi. nuovo, insomma. Figuracci. E quindi vi facciamo sentire questo atto primo, dall'atto primo la scena seconda, son deux, Un songe affreux m'inspire d'une fureur nouvelle. esattamente. Così. Quindi sentitevi questo qua. Questo era un po' tagliato brutalmente dall'atto primo, scena seconda. Un songe affreux m'inspire une fureur nouvelle. La maga è sollecitata da Idrao, che è un altro personaggio, che io non mi ricordo assolutamente chi sia Idrao, confesso. Scopriremo. Vabbè, è uno, diciamo, della corte di Armide, su Diarmide. questo, insomma, si Ci siamo. capisce. Viene sollecitata a scegliersi uno sposo tra i grandi cavalieri che sono ai suoi piedi. Insomma, c'ha sto album di figurine e ora è proprio questo Renault, Non è e che. dai. Niente, lei ribatte che solo chi saprà. Battere Renault. Eh sì, infatti, chi saprà vincere Renault sarà degno di lei. Il trionfo di Armide viene celebrato con un esteso divertissement. Una marche, rondò e sarabande vengono fatte tutte e tre. Da Eseguite. qui, ecco, il primo momento in cui lui lì infila il balletto, in modo che si può ballare. Ma dovete immaginarvelo proprio così, nel senso che la gente iniziava a ballare, cioè, funzionava così. Cioè, oltre a loro in scena anche la E gli gente. Sì, spettatori, sì. sì, è perché volevano ballare, non c'era Ecco. versi. I festeggiamenti, sono interrotti dall'arrivo di Aronte. Renaud, con la forza del suo solo valore, ta-ta-ta-ta, ha liberato i cavalieri cristiani prigionieri di Armide, che giura vendetta. Quindi Comunque, Renaud ha fatto un casino, ha scompaginato l'album delle figurine, ovvio, stupidi come sempre, uomini devono sempre buttare rovinare tutto in tutto. caciara. Ha fatto casino, ha rovesciato il tavolo e ha liberato i cavalieri cristiani crociati. Quindi Armide, che era un passo dalla vittoria, adesso si ritrova con un pugno di mosche in mano. Giura vendetta, tremenda Giura vendetta. vendetta cattivissima. Quindi atto primo, scena 4, au ciel, au disgrâce cruelle. Au ciel, au disgrâce cruelle, je conduisais mon captif avec soin. J'ai tout tenté pour vous marquer mon zèle. Mon sang qui sont mes captifs? Un guerrier indomptable les a délivrés tous. Oh, Et sa sa pitié! paix de Pitié, tous, ciel! De nos ennemis, c'est le plus redoutable. Nos plus vaillants soldats sont tombés sous ses coups. Rien ne peut résister à sa valeur extrême. Oh, ciel! Questa era la scena 4 del primo atto e velocemente zompiamo al secondo atto. Sono 5 gli atti, vi avvertiamo, quindi insomma siamo già a un buon punto. Atto secondo, aperta campagna, ove un fiume forma un'isola amena. Cioè, chi ha scritto sta trama è un Isole genio. amene. Sì, esatto. Renaud, bandito dal campo dei cavalieri cristiani, è raggiunto dal fido Artemidore, o Artemidò, Che dir si penso, voglia. che lo invita a farvi ritorno e a guardarsi dalle insidie di Armid. Perché qui si era già capito che Armid puntava. A questo punto sveglioni comunque. Sì. Insomma, ci abbiamo messo quanto? Una mezz'oretta. Sì, comunque. Idrao e Armid invocano le potenze infernali perché conducano in loro potere Renault, vittima disegnata. Renault solo è sedotto dalle bellezze naturali dell'isola, si dice incapace di lasciarla e cade addormentato. E qui direi riferimenti a Ulisse, Circe, che insomma Calipso e chi ne vuole, insomma, esattamente. Si scava lì, insomma, alla fine. Eh sì, assomiglia molto alla... ma anche Armide è molto Circe. Ma anche i proci e tutto quanto. Sì, effettivamente è proprio un riferimento abbastanza ovvio, sì. Direi. E quindi Renaud in qualche modo cade vittima della magia di Armid e della il natura, suo compare. Fondamentalmente, no? Perché rappresenta un po' forse anche questo, lei, cioè la forza della natura, insomma. Sì, anche perché la magia era comunque qualcosa, cioè, di connesso pagano, e quindi alla natura e a... Perché lei rappresenta il pagano e lui è il crociato, per cui insomma è che ci si voleva noi, ecco. Sì, esatto. Renaud si fa fregare, cade addormentato e quindi ci sentiamo tutto ciò condensato nel atto secondo, siamo sempre, scena seconda e la scena terza anche, a Retourne aux Issy e Plus j'observe ce lieu. Thank you. eccoci. Siamo sempre nel secondo atto, questa erano la seconda e la terza scena, Retourne aux ici e Plus j'observe ce lieu, quelli che ti sto leggendo sono i nomi che vengono dati alle arie, normalmente si fa così per riuscire a estrapolare un piccolo estratto, capire a quale ci riferiamo. Bene, quindi avevamo lasciato Arnaud in preda agli incanti dell'isola Mena. Esatto, all'incanto. E le potenze infernali inviate da Armid, perché nel frattempo, se vi ricordate, Armid aveva invocato le potenze demoniache, queste potenze infernali si manifestano sotto le forme ingannatrici e attraenti di naiadi, ninfe, pastori e pastorelle, cosa che gli piaceva un sacco nel 600, non ci si poteva pastorali fare. Pastorali proprio. E gli piaceva. Che adornano il dormiente con corone di fiori. E per raccontarvi questo sentiamo sempre dall'atto secondo la scena 4, due estratti, au temps on a se pleur e il prelude à quelle horreur qu'elle folie. Ho messo quello giusto? Sì, ho messo quello giusto. Eccoci, e questo era appunto le potenze demoniache che in maniera pastorale. comunque oggi che ci va ci vuole. Sì, scusate, domenica, che le cose pastorali ci stanno bene. Si avventano su Renaud, il povero Renaud addormentato. Quindi Armid adesso potrebbe celebrare la sua vendetta contro Renaud vinto dal sonno, perché nel sonno potrebbe inferire... Cioè. Si accinge a colpirlo, ma esita ed è presa alla pietà. Ta-da. Renaud le appare, virgolettato, fatto non solamente per la guerra, ma per l'amore. Ordina dunque alle schiere di demoni di trasformarsi in amabili zefiri che conducano entrambi sul suo carro fino ai più lontani confini del mondo. E qui c'è il colpo di scena. Una bella svolta, è la svolta di tutta l'opera. Armid, da maga impietosa, in un certo senso creatura guerresca, perché comunque incarna le forze demoniache e tutto quanto, diventa una donna in carne ed ossa, innamorata di Arnaud, che a sua volta da carnefice si tramuta in qualche modo in Salvatrice. sì, o quantomeno vittima inizialmente perché è vittima del maleficio che lei aveva inflitto agli altri. Lei aveva fatto innamorare tutti i crociati e quando arriva a Renault è lei che viene Che vinta. cade, Esatto. vinta. Quindi, e qui tutte le interpretazioni potrebbero essere Esatto. date, ma vabbè, ma tanto insomma sono abbastanza ovvie e ve le lasciamo intuire. Mi veniva in mente anche un piccolo inciso che anche tutta questa, no, appunto, le naiadi, tutte le ninfe, pastorie e questi innamoramenti, cioè, chiaramente sono sempre ruoli che ritornano nella storia del teatro, nella musica, però un po' mi ha fatto pensare anche al Sogno della notte di mezz'estate, anche Ah, è se lì è vero. declinato non in tragedia, però Titania, appunto, che si innamora, che è il principio femminile della natura, no? La dea della natura, che si innamora di Bottom sotto forma di asino, vabbè, lì c'è l'aspetto comico, no? Di Puck che tramite il fiore, no? Fa scombinare tutto e fa innamorare questa dea di questo poveraccio con la testa d'asino. Però la scena, proprio l'iconografia con cui Shakespeare la descrive è similissima a questa, perché Ah sì. appunto c'è questa scena proprio di che lì non è declinata in tragedia, anzi è declinata quasi più in commedia, però Eh beh, gli la inglesi scena è questa, sì, la erano, scena è avevano un questa, altro nel senso modo. lei appunto si innamora, è la vendicatrice, insomma, è la forza primordiale che appunto ha litigato con Oberon, che è invece il principio maschile della natura, e da qui poi lo spunto per tutto. Però appunto la scena è proprio questa, lei arriva lì e in realtà invece no, di compiere una vendetta si innamora, poi fondamentalmente viene colpita a sua volta, quindi è un tema poi che ritorna mille volte, Ebbene sì. super, Eh super classicone. sì, e quindi ora ci sentiamo per questo, per descrivere tutto ciò, la scena 5 del secondo atto, Enfant, il est ma puissance, che è una delle arie più famose dell'opera Armide, e che è il momento in cui appunto Armide è lì per infierire e non già, non gliela Non fa. fa, non Esatto. fa. Thank you. Armid, insieme all'addormentato Renaud, inconsapevole di tutto ciò, sotto l'incantesimo degli zeffiri, volano su questo carro fino ai lontani confini del mondo. Eravamo rimasti qua. Inizia l'atto terzo, per l'atto secondo finisce in questa maniera. Atto terzo. Un deserto. Eh sì, un deserto. Che non si spera nel più lontani confini del mondo era un deserto. Un deserto. Quindi i due si ritrovano in questo deserto, alla Mad Max, non ben specificato, sì. E, la collera di Armid si è mutata in languore. Ora è la maga a trovarsi prigioniera di Renaud, vinta da spontaneo amore per lui, come dicevamo prima. L'amore di Renaud è invece una mera apparenza. Si duole Armid con Finis e Sidonie. Perché è solo il frutto dell'artificio indotto dell'incantesimo. E quello è il problema degli incantesimi, no? Se fai l'incantesimo, poi va a sapere se è per l'incantesimo. Ammiamerà per me stessa o per l'incantesimo? Eh sì, tutte le volte che c'è queste storie sui filtri, finisce sempre così, che alla fine questa cosa... Cristiano esotta, infatti. Non funziona, infatti. E l'incantesimo è un casino. Infatti sì, lei è adesso super innamorata e lui sì, teoricamente sì, ma sappiamo tutti e anche lei lo sa che è per colpa dell'artificio. C'è da notare, no, tutti questi cambi di ambientazione, l'isola Mena, il deserto, probabilmente credo sia un modo proprio per amplificare, no? per fare sfoggio di vari scenari, di varie macchinazioni, insomma, perché ovviamente tutto questo cambio di luoghi, proprio di andare da un luogo del mondo all'altro, tutti molto esotici, appunto l'isola Mena, insomma, nell'immaginario sono misteriosi, sono magici, credo che sia un po' un modo per per far usare più roba possibile, detto malissimo, però come no, dire, sì, usare anche tutto l'arsenale. È anche quello che lo rende particolarmente, contribuisce a amplificare la maestosità del tutto, perché sì, insomma, comunque se stavano in riva alla Senna per 2 ore non è che poi sì, ci si poteva, ecco, lavorare troppo. Invece sì, sì, non era proprio aspettando Godot, ecco, no, perché quello arriva parecchio dopo quando e non c'è più soldi, sì, quando i soldi sono finiti, basta, niente, citare anche i ministri oggi proprio no more, no more bananas, no. Quindi, allora, vi ricordate Deserto e appunto Armid che si duole in questa maniera. E quindi ci ascoltiamo la prima scena dell'atto terzo. Si la liberté me doit être ravi. Eccoci, e quindi sì, appunto, Armid si duole, dicevamo, si lagna e si dispera e invoca per una seconda volta le potenze infere. Insomma, in fondo è una maga e ha qualcosa dei suoi poteri magici, gli dovranno pur servire affinché la salvino dall'amore. In risposta alla chiamata di Armid compaiono quindi l'odio, la personificazione dell'odio, e il suo seguito, prontamente apprestandosi a spezzare e distruggere ogni vincolo d'amore. Quindi è buffo come in qualche maniera Armid effettivamente le sue magie vadano o a infondere l'amore o a distruggerlo un po' estremo, cioè non è che c'ha, non c'è mezzo in misure, ma non potevano essere amici, no, amici ora, insomma, la vecchia storia è dura lì, è la vecchia storia, ma restiamo amici, non è che proprio non ha mai funzionato, no, secondo me non troppo, però non so. Ma infatti Armide lo sapeva e comanda quindi all'odio, cioè di fare questa cosa, per lo invoca, ma quando si accorge che l'odio sta per distruggere tutto, ha un ripensamento e dice no, non ce la faccio, no, smetti, comanda all'odio di interrompere la sua opera, preferendo restare sotto la legge del suo dolce dominatore. Comunque Armide è una che lancia il sasso e leva la mano, sì, non sì. È che voglio dire, però insomma certa te la dovrei accollare una decisione, ora io sto un po' ma sì, sulla polemica oggi, però... Lei è un po' così, è combattuta, non sa che fare, non lo so, fa un po' casino. Insomma, un'epoca l'odio, non è che puoi rimandarlo indietro, non lo so. Infatti tu potevi invocare, non so, il... disprezzo, so. Sì, il mal di stomaco, non so. Cioè, invocato l'odio, ora è un casino fermarlo. Eh sì, comunque. Infatti ci rimane male l'odio, tra l'altro. Poi dopo lo vediamo. E vabbè, sì, e quindi sentiamo... scena 4 dell'atto terzo, Amour, Source Pujamé. Thank you. questa era la scena 4 dell'atto terzo. L'odio, vabbè, l'atto terzo sta per finire, l'odio ci è rimasto male. Compiange la debolezza amorosa di Armid, che la condurrà a un orribile abisso, dice, e la punisce, perché comunque è l'odio, non è che si scherza con l'odio, la punisce dal suo voltafaccia promettendole di lasciarla per sempre in preda al suo amore. Quindi, essenzialmente, cioè, questa è una minacciona, però. Eh sì, poi la punisce, insomma, non fa niente praticamente. Dice ti lascio così, cioè, sì. Come sei messa a stare. Quella è una punizione. In qualche modo. E quindi così finisce l'atto terzo e comincia il quarto. Io ho una domanda. No, vai, dimmi, dimmi la domanda subito. No, perché scusa, l'atto quarto, appunto, Ubalde e le Chevalier Danois si dirigono verso il palazzo. Sì, che dà per scontato che noi dobbiamo sapere chi sono. Io, con tutto il bene, con tutto lo studio e l'impegno, che sono anche una ragazza dirigente, ma le Chevalier Danois, che io, che so, le Cavaliere Danaidi, danese, no. Forse. Oppure il cavaliere danese. È uno che si chiama Chevalier Danois. È il cavaliere danese, forse. E lui Ubaldo. Era. E Ubaldo. Vabbè, mi sono un attimo persa. Scusate. Eh sì, sono. Ogni tanto in questa presentano trama. Presentano un po' di personaggi, però un po' come nelle soap opera compaiono un po' così. Cioè, è arrivato lo zio Armando. Immagino chi è, lo zio d'America. Cioè, non lo so, specifichiamo. E questo perché sono le enciclopedie italiane, quelle fatte veramente così. Vedi che se andiamo a vedere la Traviata, la fanno tutta per Benino. Capito? C'è tutta la sinossi. Sì, anche lì vedi complottismo, perché. Certo, c'è una qui è tirata un po' via. Culturale notevole, qui, insomma. È tirata un po' Vabbè, via. Vabbè, Ubalde e le Chevalier Danois si dirigono verso il palazzo di Armide, giusto? Per liberare Renaud, e qui chi voleva capire ha capito, respingendo i mostri inviati contro la loro dalla maga. Sì, contro di loro. Perfetto, contro di loro dalla maga. Ma costei ora scaglia contro di loro le lusinghevoli forze dell'incantesimo amoroso, sotto le apparenze di Lucinde e Melis, che sono altre due che anzi Lucinde e Melis incarnano di nuovo, cioè sono l'incarnazione umana, credo di queste due forze. Sì, dovrebbero, sì. Sotto le apparenze, quindi sotto le spoglie. Sì, perché in realtà questa era una convinzione seicentesca, tipicamente. Dell'incarnazione. Sì, sentimenti e le cose erano comunque personificate. È una derivanza poi degli spiriti, cioè gli spiriti del corpo. Vabbè, quindi Lucinde e Melis. Al tocco dello scettro d'oro donato da un mago ai cavalieri, anche questo però facciamo dei prequel, perché comunque insomma, a difesa, cioè, allora, sti cavalieri avevano lo scettro d'oro donato da un mago a difesa degli incantesimi, per difendersi dagli incantesimi. E che non lo potevano usare prima? Domanda, ma se c'avevano questo scettro d'oro, no? Com'è che finora l'hanno usato? Vabbè, e gli avranno dato nel frattempo, nella trama non c'era scritto. Esatto. E quindi, usando questo scettro d'oro, le pericolose dolcezze delle illusioni amorose incarnate da Lucinda e Melis svaniscono. Eh sì, cioè avevano. A questa Armida non gliela va bene una, io no. Simpatizzo un po'. Anch'io simpatizzo, onestamente, anche perché c'è questo Renaud che palesemente è un. Che è Renaud? Sì, è Renaud. E poi è un. Detto Renaud? Sì, esatto. E lui secondo me è uno, cioè dai, un macio di vestiti. Dai, lui è proprio il classico. Un tamarro, sì. Che con si tatuaggi. Fa regi action, si è capito. Sì, dai, lui sarà. Come al solito gli dà troppa importanza, secondo me, perché alla fine, boh. Sì, lui palesemente è uno. Lui ancora non lì. Ha fatto un atto utile, non vorrei essere giudicante, però qui. No, ma ha fatto un utile, tra l'altro l'unica cosa che ha fatto è ha liberato i suoi nemici, però insomma. Si cioè, ho capito però. Sì, poi va a capire come l'ha liberati, magari con l'aiuto di un mago, quindi lui non ha fatto niente. Infatti, comunque sì, Purina si è fatta un po' fregare, anch'io solidarizzo, sì, però sì. Che si deve fare? No. Sì, non vanno mai bene tanto per le donne le opere. In cioè, generale non va capito. Mai bene, in generale, mi sembra sì. Le opere rispecchino un po'. Sì, assolutamente. Quindi, bene, questo era l'atto quarto e per farvelo sentire vi facciamo ascoltare la scena terza. Enfin, je vois la main pour qui mon cœur soupire. Enfin, je vois la main pour qui mon cœur soupire. Je vais trouver Tutto il mondo abbiamo finito l'atto quarto finita tutto questo casino, eccetera, arriviamo all'atto quinto, che è l'ultimo atto e dove si tirano un po' le fila di tutto ciò. Il palazzo incantato di Armide è la sede del quinto atto, quindi ritorniamo in un luogo più consono e più usuale. Renaud giace ai piedi di Armide, privo di armi e ricoperto di ghirlande di fiori. Sembra un po' tipo coperto di piume con la pesce. Sì, dove se la rischiava un po', Cioè, non questo è è che i fiori dormito, gli è erano. successo di Sì, tutto. tra l'altro ha dormito per tutto il Sì, tempo, non per sì. invidiarlo, però comunque ha dormito per tutto il Inutile, tempo. inutile. Vabbè, Un personaggio un inutile. po' sì, effettivamente. E la maga si allontana dall'amato per interrogare le potenze infernali e lo affida ai piaceri e agli amanti fortunati. Anche qui in forma di personaggi. Sì, Quindi questo si che diverte un lui botto, di fatto. sì, a volte, più delle volte in maniera inconsapevole, però perché non si Stordito accorge. proprio. E a volte invece sì. Vabbè. Ma Renaud respinge i piaceri, desideroso solo del ritorno di Armide, Ah, ma perché allora. ricordatevi che lui comunque è ancora sotto l'incantesimo, e quindi lui cioè, ora diventa anche un po' appiccicoso, diciamo. Cioè, lei vuole andare un attimo a parlare con le potenze Tra l'altro al infernali. telefono, Ce la fa un po' stai lì. cazzi suoi e lui no, no, no, no, rimani. Quindi Armide lì doveva un po' capire, secondo me, che era una piaga. Eh sì, se non Vabbè, l'aveva già capito. e quindi qui c'è la passacaglia, perché in questo, siccome lei va al telefono un attimo, è un perfetto momento per lui per infilare una di quelle scene di balletto di cui si parlava Che all'inizio, che pancia non la metti? c'entrano assolutamente Niente. niente. Che però Buttate lì. una roba buttata lì, fra l'altro lunga, perché è l'unico pezzo un po' lungo che vi faremo sentire, dura circa 13 minuti, e sì, e però non c'entra niente, ma comunque ora obiettivamente dobbiamo dire che è una bellissima passacaglia, quindi glielo Come diceva il mio amico, perdoniamo. non c'entra, però c'entra. Sì, infatti, gliela perdoniamo e ve la facciamo sentire. Poi vi raccontiamo la fine di quest'opera e vi facciamo sentire un'ultima aria corta e ci salutiamo, insomma, avete ancora poco tempo da soffrire con noi. Durerà poco, ve lo promettiamo. Questa è la Passacaglia, sempre atto quinto, scena prima. Thank you. Questa era la Passacaglia, atto quinto, scena prima, il divertissement che dicevamo, in cui Lully infila questo lungo balletto e con coro, come dicevamo fuori dai microfoni, e quindi siamo alla fine di quest'opera. Ubald e Le Chevalier Danois, che secondo, a questo punto secondo me, ecco, la coppia scoppia, secondo me è il cavaliere danese. Io sono arrivata a questa conclusione, cioè, Ubaldo e il cavaliere danese, diciamo. Eh sì, per forza, sì. Approfittando dell'assenza di Armide, che vi ricordate era andato un attimo al telefono a sentire le potenze infernali, mostrano a Renaud l'altro dono del mago, ovvero, che anche lì se li tirano fuori un po' alla volta. Sì, veramente. Era uno scudo di diamante che gli permette di rinsavire. E quindi vorrei fare un'altra domanda. Ce n'è un altro disponibile? Per ora mi sembrerebbe, a me mi farebbe comodo. Fammi vedere. No, ce n'era uno solo. Vabbè, lo ordino. Guarda su Amazon. Lo ordino su Amazon. I cavalieri si accingono, non mi riesce neanche a dirlo, si accingono a lasciare l'isola, perché basta, hanno preso Arnaud. Ormai Arnaud, dai. Arnaud, madonna, perché mi viene Arnaud? E la maga, disperata, cerca in ogni modo di trattenere Renaud, offrendosi sua prigioniera. Addirittura proprio ostaggio volontario. Sì, una tragedia, cioè, dalle stelle alle stalle proprio. Cercando ora di minacciarlo, ora di impietosirlo, cioè proprio tocca al fondo. Le prova tutte. Tocca quando al uno ha detto, vabbè, guarda, io le ho provate tutte. Tocca al fondo, gli si attacca la caviglia e via. Ma Renaud, ovviamente, perché è un arido Giuda, resiste alle sue lusinghe e la lascia. Maledetto. Non senza parole di compianto per la sua infelice sorte. Ah, perché è rinsavito, perché comunque fino all'altra scena non la voleva far andare nemmeno al bagno. Eh no, e ora con lo scudo di diamante. Ma gli uomini sono tremendi, È rinsavito e capito, gli fa pure le parole di compianto per la sua infelice sorte. Certo, perché poi fa porina. Dici, poveretta. Porina. Sempre questa condiscendenza. Quindi Armide, abbandonata, lamenta il proprio destino. Beh sì, cioè voglio vorrei vedere. Scaccia i piaceri dal palazzo, che tanto non servono più a niente, non li vuole più vedere nessuno, manda via tutti, basta, mandate via tutti, voglio stare da sola. E ordina ai demoni che venga distrutto il palazzo, augurandosi che con esso resti sepolto anche il funesto amore per Renaud. Quindi si allontana. L'ha presa bene. Sì, no, non ci è rimasta per niente male. E quindi si allontana sul suo carro volante. Meno male che almeno la... Qui è proprio Medea style, cioè. Sì, io pensavo anche a Apollon, il carro di Apollo, però vabbè. Sì, c'ho dei retaggi un po' così. Va bene, e quindi con questa tragedia finisce l'opera e vi facciamo sentire l'ultimo pezzettino, che è sempre, quindi atto quinto, la scena quinta, Traître, Attends, je le tiens. E con questo vi salutiamo, vi direi, un pezzettino corto, due minuti. Sì, vorrei fare un'altra domanda. Infatti, aggiungi le cose. Cioè, si allontana sul suo carro volante, gli ha rubato pure il carro volante. Cioè, comunque, no, Renaud non era suo, perché, cioè, lui va via, gli ruba pure, è come se, cioè, fidanzato ti lascia e poi ti ruba la macchina. Non so se l'ha rubato Renaud, forse è lei che va via allontanandosi sul carro. Ah, dici? Forse sì. Ah, quindi si allontana, vabbè, sì. No, scusate, oggi. No, se no era veramente bello. No, però, comunque, boh... Cioè, va bene, quindi perché era un tamarro che gli ha rubato anche la macchina? Secondo me, guarda, gli ha rubato anche la macchina. No? Secondo me ci potrebbe anche vorrei essere. Vorrei fare un po' un video di Beyoncé così, però un po' secondo me... In effetti comunque il soggetto non c'è nella frase. Capito, cioè la frase è sibillina, Renault, virgola, si allontana sul suo carro volante. Quindi si allontana sul suo carro volante. Io, allora, diciamo questo: finale aperta alla Blade, cioè due finali alla Blade Runner. Uno, che lei alla fine si allontana sul suo carro volante e ce la può fare. Due, che lei rimane sepolta sotto le macerie del palazzo e il carro volante se lo piglia Renault. Che sì, comunque io voto per la prima. Sì, sì, e beh, lo voglio dire. E beh, sì, e comunque è una tragedia, deve essere tragedia per forza. Sì, boh. Va bene, e quindi vi lasciamo con questo, ci risentiamo domenica prossima, sempre con La Fuga del Gatto, sempre su Wombat Radio, Radio Wombat, e basta, godetevi questa fine di domenica. Sì, e perdonate veramente il gossip, l'indegno stato di oggi, ma lo so, non è che tutte le domeniche sono uguali. Beh, però la musica era molto colta. No, infatti ero io per fare il paro alla musica colta, no. Fare un po' il contrappasso. È giusto, dice, perché il nostro approccio alla soap opera sarà punk, sempre questo. È sempre punk. Sì, sì, sì, sappiatelo, cioè se volete anche guardare titolo e quando parliamo di opere tagliare, passare oltre. Sì, ma anche se andate a vedere i podcast vecchi vi accorgerete che comunque più o meno, anche se a volte appunto uno cerca di darci un tono, poi però alla fine comunque va sempre in caciara. Ebbene sì. Meno male. Quindi vi lasciamo a quest'ultima scena tratta sempre dall'Armide di Jean-Baptiste Lully, se foste entrati in ascolto solo adesso. E mi raccomando, rimanete su Radio Wombat, ascoltate il Bobinone che vi darà un sacco di bella musica e poi dopo le repliche delle varie trasmissioni. A domenica prossima. Ciao, ciao a ciao tutti. Ciao. Ciao.